Spesso alcuni grandi lutti vengono celebrati dalle comunicazioni di massa in due fasi ben distinte. C'è la fase immediata del cordoglio, pagine e pagine intessute di lodi e bagnate da calde e copiose lacrime. E il grande lutto è grande proprio perché è narrativamente vissuto da persone adeguate, ovvero altri grandi che, rimasti vivi, spendono parole e atteggiamenti appropriati intorno al morto. Il poveretto, dico l'uomo della strada, in queste occasioni ottiene giusto un posticino in quanto estensione dell'elogio al morto, come complemento ai ricchi, ai colti e ai potenti. Se oltre ad un paio di ministri, qualche autorità civile, un centinaio di attori, qualche cantante, tre o quattro magnati illuminati, se oltre a questi c'è anche il volto ignoto in lacrime fra la folla anonimamente commossa, quell'immagine rubata con destrezza impreziosirà le tante altre che doviziosamente raccontano la rappresentazione pubblica del dolore di chi possiede un volto noto, anzi molto noto. E c'è una fase successiva che può iniziare poco prima o poco dopo la sepoltura del morto, in cui il dolente rispetto e le buone maniere di facciata lasciano il posto alle cosiddette verità, che per lo più gettando il più radicale discredito sulla reale consistenza della prima fase, sanno di vergogne, di bassi interessi, di asti e di malizie, di residui rancorosi, fino al dileggio. E così è andata anche per la morte di Strehler. Già confrontando la cronaca del giorno dopo con la cronaca di due giorni dopo, il lettore di giornali si stupisce e, se non fosse per la costanza di alcuni nomi, di alcune circostanze, sarebbe tentato di credere che i morti siano due. Nella prima cronaca, infatti, manca un personaggio non secondario a quanto pare, che invece compare nella seconda. Sarebbe come se almeno un paio dei cinque atti dell'Otello venissero purgati non solo della presenza di Desdemona, ma anche di qualsiasi discorso altrui che la riguardi. Sarebbe un insulto al buon senso e alla pazienza degli spettatori. Eppure tutto ciò non turba affatto la coscienza dei direttori di giornale. Che il giorno dopo la vicenda sia andata diversamente da come raccontata il giorno prima non preoccupa nessuno. C'è di mezzo il decoro del grande lutto e l'ipocrisia sembra quasi pattuita con un compiacente lettore. Così quel leone che muore solo, secondo l'ardita metafora zoologica del Corriere della Sera del 27 dicembre, sullo stesso Corriere del giorno dopo, più umanamente, è morto fra le mie braccia, dice una signorina, che mancando fino a ieri, oggi vuole ridare realismo e credibilità alla scena. Da lì in avanti tutto assume una consistenza diversa. Non è più la governante a telefonare al medico durante l'agonia di Strehler, non è più la moglie ad essergli accanto, perfino la casa, quella che ieri si trovava a Ruvigliana, oggi a Castagnola, sempre al sicuro in Svizzera, perfino la casa non è stata comprata da pochi mesi condividendo una scelta fatta con la moglie, ma ovviamente in considerazione che da 8 anni amava un'altra, ovviamente con quest'altra. Perfino il cane non si chiama più così banalmente come il giorno prima Ugo, ma più civettualmente Ugo Maria. Cambiano i personaggi, cambiano gli eventi, ma trattandosi di personaggi di riguardo, come la forma di certi razzi che partono verso il cielo, cambiano a stadi. Una volta consolidata la narrativa mitologica, vi si può aggiungere che sia anche quell'ironia cattiva che fa cominciare un articolo di qualche giorno dopo con Vedove di Strehler al plurale, atto primo, tanto per rimanere al teatro. Claretta Petacci, che con la cultura bazzica in quanto pittrice, Claretta Petacci è finita malissimo, ma accanto al suo amato Benito Mussolini. Si è trattato di un amore innanzitutto epistolare. Nell'aprile del 1926, pochi giorni dopo l'incerto e sfortunato attentato che una signorina inglese fece alla vita del duce, Claretta infatti gli scrive che vorrebbe strangolare personalmente l'attentatrice e che lei, come una piccola fascista della prima ora, lo ama profondamente, tanto da voler posare la sua testa sul petto di lui e poter così udire ancora vivi i palpiti del suo grande cuore. Laddove chiunque di noi avrebbe scritto ossequi o distinti saluti, lei invece gli dice: "Duce, la mia vita è per te". In quel momento Claretta aveva 14 anni. Cronache peraltro oscure vorrebbero che il duce attendesse qualche anno prima di cogliere simili virtù e di accondiscendere a prestare il suo ampio e villoso petto alle auscultazioni della giovane ninfa. Sembra infatti che, grazie al caso o a qualche spinta che il caso ha accettato di farsi dare, si siano poi incontrati l'8 settembre del 1933, ma c'è chi ne dubita. La signorina del giorno dopo, per tornare all'argomento, l'effettiva compagna di Strehler, scavando nel punto giusto di quei ricordi che ne legassero la propria sorte, entro certi limiti, ben inteso, a quella del noto regista, dopo aver fatto notare che lei è sì figlia di industriali, ma di industriali di sinistra, il che è, dati i tempi, quasi pleonastico, riporta alla luce un episodio cruciale della propria esistenza. Sì. Aveva 10 anni, stava guardando la televisione ed in televisione chi c'era? C'era Strehler. Senza indugio, allora, profeticamente, disse alla mamma: "Mamma, è l'uomo della mia vita". In poco più di 70 anni, grazie alla televisione, siamo progrediti di 4 anni nella scala dell'età della determinazione amorosa. C'è da pensare che oggi a Berlusconi e a Veltroni scrivano bambine di 8 anni. Oltre alla simmetria con cui sono disposte le cose del mondo, perché non si dà mai il caso di un maschietto che scriva a Rosy Bindi garantendole il suo eterno amore e realizzando al fine il suo ardito progetto, l'episodio serve ad insegnarci che certe trame narrative non accolgono mai interpreti omogenei. Voglio dire che sia la povera Claretta che la vedova in pectore di Strehler, indubbiamente persone in carne ed ossa, hanno investito il loro bene più prezioso, l'amore per l'altro, non in una persona come loro, ma in un personaggio. Gioco forza, allora, è loro precluso un credito cieco, anche perché nel genere letterario intitolato alla realtà, il plauso popolare è riscosso dalla verosimiglianza.